Provo. Provo. Provo. Provo a descriverti ciò che entro me trovo. Nulla, tranne te. Perché il mio miele l'ho trasformato in una rondine che ora vola verso te. Sento il maremoto tra macchine sasseride, fuliggine e ruggine, che alchemico onirica, tu congiunta d'anima mia sarai entro me eserea, scavando via lacrima di follia che se veloce vola via, e se rondine vola via fino alla fine, la fine lontano via da te, in un posto che non c'è, lì vivi troveremo l'isola che non c'è, ove nel cemento trovo passi dentro e lui ti portò lontana, ove il passo esclude la vista ma i tuoni nel cuore trova follia e parola solo per un mai analista, la luce mi tolse la vista e la vista perse te, persa il cuore stagna, persa, ora lontana, lascio, dai la mano e rondine via una liberamente, libera la mente, scrivendo un verso d'amore per farti tornare, farti innamorare. Tra ponti accese e mare, tra i paesaggi di bimbo, di maschere tolte al carnevale, voglio essere uomo, aurora, mi vuoi sposare, mi vuoi sposare, lady, mi vuoi sposare, aurora, mi vuoi sposare, lady, mi vuoi sposare, provo a descriverti ciò che entro me trovo, nulla tranne te, perché il miele l'ho trasformato in una rondine che ora vola verso te. Sento il mare muoto tra macchine e sassedine, fuliggine e ruggine che anche mi corica, tu congiunta d'anima mia sai entro me eterea, scavando via lacrime di follia, e se veloce la via, e se la rondine vola via fino alla fine, alla fine lontana via da te, in un posto che non c'è, lì mi trovo e troveremo l'isola che non c'è, ove nel cemento lo trovo un passo lento e lui ti portò lontana, ove il passo esclude la vista ma il tuono nel cuore trova follia e parola solo per un mai canalista, la luce mi tolse la vista e la vita perse te versa, il cuore stagna persa, ora lontana lascio mai, dai la mano e rondine vola via liberamente, libero la mente, scrivendo un verso d'amore per farti tornare, farti innamorare, tra ponti accesi e mare, tra i paesaggi di bimbo di maschere, tolte il carnevale, voglio essere uomo, ora mi vuoi sposare?